ciò che porti. Prima del gran romore ho solto, cardine sempre fermo, invitissimo Atlante, io qui per nome delle romane squadre. Chiedo se degno dell'ufficio sono, di Manlio il figlio a te la vita in dono. Manlio di colpa è reo, non obbedì al senato, non eseguì del console il comando e devo dir. Ben po' grazia donar chi da castigo, nelle labbra dei giusti sovente l'ancor suona. Ma giustizia non fa chi grazie dona. Maglio svenò in Geminio il maggior capo dell'idra noi rubella, onde il suo fallo merto diviene e l'omicidio è impresa. Merto la fellonia chiamasi ancora. Maglio è reo della patria e vo che mora. E tuo figlio, signor? Dalla memoria di padre questa penna or lo cancella. Non son senza il suo braccio pugnar le schiere e naufraga la speme dei romani trionfi nel pianto dell'esercito che tutto prega al tuo pie prostrato e grazia chiede al genitore sdegnato. Va, rapporta che l'aquile romane arma più d'un artiglio, né di famoso allor scintilla chioma, mancan figli guerrieri al terro a Roma. L'ultima allor libere voce ascolta, o Maglio dona vita, o... Chi dà legge a Roma, chi è console, chi regge? Son io, del Roman popolo in quest'ora padre, e giudice sono, e il figlio mora.